inglesi sono forti a fare dal giornalismo anche una cosa, diciamo, di basso livello. Mm-hmm. Io ho detto che ci sono certi giornali in Inghilterra che servono solo a pulire i vetri della macchina, quindi... Noi giocavamo con un assetto di 4-1, come voi sapete, 4-1. Come Marchionne mette un pullover, il maglione blu, no, mette i bermuda, insomma. Sì, sì. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti. Stavo leggendo, Franco Piantarini di redazione, Filippo Auregi in regia, stavo leggendo il rompipallone di Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport, Ferrari, il medico di Armstrong e Schwarzer. Non si ferma più. Bersani mi chiese un aiuto per vincere le primarie del PD. Stavo leggendo anche Vincent su Twitter, quella di ieri è stata la più brutta partita di Champions degli ultimi 10 anni, credo si riferisca a quella del Milan, anche se di sorprese ce ne sono state tante. Malaga, la città ideale per innamorarsi. Il mio amore è nato a Malaga, Malaga, Malaga. Il mio cuore resta a Malaga, Malaga. In quella casa dal patio antico, mi vengono quasi le lacrime agli occhi nel sentire Fred Bongusto, città ideale per innamorarsi o magari per chiudere un amore come quello tra il Milan e Massimiliano Allegri. Chissà se bisogna fare le primarie anche al Milan, mi domandano dalla regia, questo non lo so. Mentre saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Io non sono d'accordo con te, posso dirlo? Dimmi, dimmi. Perché tu scrivi esonerarlo, prima pagina della Gazzetta di oggi, certo. Ora è inutile. Io credo che sia in valore assoluto inutile esonerare un allenatore, salvo il caso in cui l'allenatore sia stato già cambiato, ed è già successo da tempo, dalla società. Questo è avvenuto al Milan in estate, i giocatori lo sanno bene e in questo momento stanno solo aspettando quello. Ci sono dei casi in cui l'allenatore non riesce più a tenere in mano la squadra. Era l'impressione che mi aveva dato Allegri fino a qualche tempo fa. Adesso qualche minimo segnale di reazione c'è, anche lui ha provato ad inventarsi qualcosa. Il problema vero del Milan è la mancanza assoluta di qualità dei suoi giocatori. Non c'è nessuno che sappia dare una regia al gioco del Milan, che sappia portare avanti la palla, che sappia rilanciare. Ieri sembrava di vedere certe partite dell'oratorio, perché la palla dalla difesa veniva lanciata lunga in attacco sperando che Al-Sharawi si inventasse qualcosa. Il problema del Milan non è soltanto l'allenatore. Io ma credo questa, che il Milan, scusami direttore, che questa è mancanza di qualità o è paura o è sfiducia? Cioè, secondo me c'è tutta una somma di varie cose. La mancanza di qualità assoluta, almeno la qualità l'ha venduta in estate o l'ha lasciata andare via in estate. Adesso comincia a mancare anche un po' di fiducia e poi subentra la paura, perché certe giocate sono dettate dalla paura. La classifica del Milan in quella del campionato fa sicuramente paura, quella di Champions League è ancora tutta salvabile, però poi è una squadra che più in là del primo turno molto difficilmente, certo, potrà andare. L'importante credo che il Milan debba dimenticarsi quello che è stato e cominciare a ragionare in modo diverso, non dico la provinciale, ma giù di lì deve incominciare, sì, a cercare a fare magari anche soltanto un punto, perché può servire. Il Milan non può più andare a imporre il proprio gioco, il Milan di quest'anno, assolutamente. Sono d'accordo sarà con te, però a subirlo con il 90% delle squadre. Sono d'accordo con te, però questa non è quella di Allegri, non è la via migliore, cioè provare la difesa a 3, provare a cambiare qualche cosa al no, Milan soprattutto serve... non è la via migliore. Secondo me provare a improvvisarla senza mai o quasi mai averla provata, bravo, a Milanello. Bravo. Non è che vai a giocarti la partita, bravo, che può essere decisiva per te personalmente inventandoti qualcosa. Poi per quello ieri alla fine è andata anche bene al Milan, perché il Malaga che era stato travolgente sia con l'Anderlecht che con lo Zenit, ieri col Milan ha rischiato anche il pareggio alla fine della partita. Quindi il Milan è riuscito a contenere, certo. Chi il tifoso milanista è abituato ad andare in Europa e vedere la sua squadra che detta gioco, non la sua squadra che soffre anche contro il Malaga, che è la terza forza del campionato spagnolo. Il problema del Milan è che secondo me non, in questo momento non vive più, se non in un ragazzo che sabato, se non ricordo male, farà 20 anni e che non ha passato in questa squadra. In campo non ci sono quelli che si prendono la responsabilità, non ci sono più, non c'è più chi chiama la palla, non c'è più chi è in grado anche di tenere in mano le briglie dello spogliatoio. Una ristrutturazione improvvisata quella del Milan, non si è tenuto conto del talento che veniva messo in vendita o regalato durante l'estate, si è sovrastimato qualcuno, per esempio dare il numero 10 a Boateng e affidare magari anche a lui la chiave della squadra, è stato un errore madornale, sì. E qui credo che conti anche l'allenatore, perché l'allenatore Boateng lo conosceva meglio di chiunque altro, e poi ti aspetti chi è che può prendere in mano il Milan oggi dicevo Ambrosini, il vecchio capitano, ha il cuore sicuramente, non ha più la corsa di qualche anno fa e non è mai stato un giocatore di eccelsa qualità, però il cuore ce l'ha sempre avuto. Montolivo ha la testa da leader emotivo, non so se tecnico. Esattamente. Montolivo era la qualità su cui non puntava, fino adesso si è vista poco, si è vista nel derby soprattutto, ma poi si è vista poco. Ieri Bonera al centro della difesa ha fatto una partita decente, insomma, però sai, il Milan era abituato ad avere Thiago Silva e Nesta lì in mezzo, quindi anche una buona partita di Bonera ti sembra una partita magari sufficiente, anche se ho visto che le pagelle non solo della Gazzetta ma di tutti i giornali oggi lo hanno abbondantemente promosso. Sì. Quindi sei sempre convinto che in questo momento sia sbagliato cambiare Allegri? Io credo che in questo momento sia abbastanza inutile, non credo che possa provocare una scossa, soprattutto passare da Allegri a Tassotti, che poi è la continuità, perché Tassotti c'era nel Milan di ieri, ma anche quello dell'altro ieri, e non credo che affidare a lui la squadra possa dare quella svolta emotiva che certe volte il cambio dell'allenatore può dare. E credo che Allegri abbia di fronte un calendario che gli possa permettere di cercare di rialzare la testa. Se dopo domani col Genoa riuscirà finalmente a vincere una partita a San Siro, poi il Palermo è in crisi tanto quanto il Milan, e poi fino ad arrivare a fine mese, quando poi ci sarà il Napoli e poi la Juventus, il calendario del Milan dà la possibilità di rialzare un po' la testa, certo senza illusione, perché questo Milan è una squadra che se arriverà a settima alla fine dell'anno sarà già un grande risultato. Grazie direttore. Quinto, settimo posto. Grazie a voi, buona trasmissione, buon pomeriggio a tutti. Tutti convocati ragazzi, 800240024, numero verde, messaggi 349-238-6666, oggi non ho ancora ricevuto particolari rimostranze dagli ascoltatori, vediamo di farli arrabbiare un po' con... Tornando a Galliani e a Briatore. Taking care of business, it's all mine. Taking care of business, working overtime. Woo! Taking care of business. Taking care of business. Iturra, una magia per Joaquin. Joaquin, un palo a mette. Joaquin. È qualche minuto che il Malaga spingeva con grande pericolosità. Joaquin riscatta l'errore dal dischetto. Devi essere un buon coach, devi saper gestire gli altri, motivandoli, aiutandoli, rendendoli fedeli. Abbiamo parlato di questa mattina con l'allenatore, pensiamoci, deve pensare un po' l'allenatore come uscire da questa cosa. Se sei arrogante sei fuori. Non lo so, io credo che le risposte le debba dare l'allenatore. Io faccio l'amministratore delegato, per cui preferisco non rispondere. Il libro delle scuse con me a poche pagine. Chiaro ed ovvio che tutti questi gol su palle da fermo ci sono responsabilità dell'assetto difensivo. Facciamo lavorare l'allenatore, sennò che non è in discussione, no? E soprattutto non pensare di essere sostituibile. Dunque, abbiamo preso un follower su Twitter da qui all'inizio della trasmissione, mi sembra pochino, Vedete un po' voi, vediamo quanti ne arrivano da qui alla fine del programma. Dunque, ricapitolo il mio pensiero, secondo me Allegri è stato convocato fino alla partita di sabato con il Genoa, il neo Genoa di De Neri. Io non credo che si possa andare avanti così, ma perché, lo ripeto, questo non dipende dalle qualità di Allegri, questo non dipende dalla sua abilità, dipende dal fatto che Allegri è stato praticamente esautorato dalla dirigenza in estate, gli è stata cambiata la squadra, questo è avvenuto al Milan in estate, i giocatori lo sanno bene e i giocatori mi sembrano una armata allo sbaraglio. che ha bisogno di una nuova guida, che ha bisogno di regole semplici e precise, che ha bisogno di capire, di trovare una strada sulla quale camminare, non naturalmente fino allo scudetto perché non ne ha le qualità, però quei 7 punti in classifica e il pochissimo, consentitemelo, che si è visto in 2 delle 3 partite, l'altra è stata molto fortunosa, in Champions League non fanno che testimoniare questo. Il Milan non vale 7 punti e il Milan vale il passaggio di questo girone in Champions League, di questo sono certo. 8-0-0-24-0-0-24 il numero verde. Paolo Mantovani su Twitter: ma perché te la prendi con Allegri, la qualità da bassa classifica? Ragazzi, da bassa classifica quanto il Milan vale 7 punti in classifica secondo voi? Ma siete impazziti? 8-0-0-24-0-0-24 numero verde. Alberto da Padova. Pronto? Pronto. Eccomi, ne volevo dire la mia a proposito del Milan. Ho 58 anni, come dicevo, e sono tifoso da quando ne avevo 12. Mi vanto, anche se posso permettermi, di aver visto tutte le finali di Champions dal vivo allo stadio da Barcellona in avanti. E secondo me c'è un grosso equivoco su Allegri, questo volevo dire. Sì, vada via, resti, non è questo l'importante. Quello che mi meraviglia è come non si sia ancora creato un movimento per premere su Berlusconi perché ceda, si tiri da parte. Ma mi sembra che questo movimento esista, Alberto, ed esista già da un po', no? Non mi pare, io seguo su internet, su Twitter, su Facebook, non mi sembra di aver visto una pressione anche allo stadio, i tifosi. Perché veramente stiamo pagando con gli interessi quanto abbiamo probabilmente avuto in regalo in maniera eccessiva, a mio modo di vedere. Beh, no, con gli interessi, Alberto, con gli interessi no, perché... No, vabbè, Alberto, lei ha visto alzare delle coppe dei campioni, ha visto vincere dei campionati, con gli interessi no, una stagione storta ci può stare, però se si tratta di reimpostare una squadra, questo non è il modo, questa non è la maniera. Al Milan manca chiarezza, ma manca sul serio chiarezza sui programmi futuri, su dove si vuole andare, ma realisticamente, perché poi non può uscire Galliani. A parte il fatto che io sono convinto ci sia una frattura, una crepa all'interno della società Milan che ha il suo peso, però non può uscire Galliani a dire abbiamo preso Pazzini e De Jong, adesso puntiamo allo scudetto oppure faremo strada in Champions League. Queste sono balle cui non può credere nessuno, nemmeno il più cieco dei tifosi rossoneri. Non c'è chiarezza sul futuro, sulle linee guida di questa società, perché abbiamo detto tante volte, i tifosi del Milan accettano dopo tanti anni di successi un anno di magra, un anno di rifondazione, però un anno che sia funzionale a qualcosa. Quest'anno, questa stagione non è funzionale a nulla, non è funzionale al futuro del Milan. Enrico da Roma. Sì, Carlo, buonasera. Salve. Senta, io so di essere un po' fuori argomento, perché avrei voluto chiamare ieri, ma non mi è stato possibile. Non c'è un fuori argomento, in tutti i convocati, siamo allora, qui apposta, perché grazie, non esiste. 8-0-0-24-0-0-24, grazie a lei per aver risposto. Le volevo dire questo qui. Io ieri ho sentito molto parlare, io sono un tifoso juventino, sentivo molto parlare del discorso che la Juventus mancherebbe, sai, il ritornello di ieri, no? Il top player che risolve le partite nei momenti topici. Ok. Io però vorrei anche sottolineare un fatto, che l'attacco della Juventus lo scorso anno è stato il secondo della Serie A, quest'anno è il primo attacco della Serie A. Ma sì. E molti dei gol che segnano i centrocampisti sono dovuti al gran gioco di movimento che fanno le punte. Perfetto. Allora io mi chiedo, quale top player in Europa possa essere acquistato che abbia le stesse caratteristiche dei calciatori che ci sono adesso alla Juventus e che abbia la voglia di sacrificarsi per aprire degli spazi agli inserimenti di Vidal, Marchisio, eccetera, eccetera. Un giocatore in grado di risolvere da solo partite come quelle dell'altra sera, caro Enrico. Un giocatore che sia in grado, l'anno scorso si ricorderà quella lunga fila di pareggi che a un certo momento mise in dubbio la permanenza della Juventus in testa alla classifica, il giocatore che da solo ti risolve la partita da 0-0, da 1-1, il giocatore che vai a Nordjylland, vai sotto di un gol e fa come fanno quelli del Barcellona, come fa Chicharito Hernandez, come fa Van Persie, come fanno come fa Tevez. Beh, lasciamo stare Tevez, che in questo momento il City non è proprio in buone acque. Insomma, il giocatore in grado, Vucinic in parte lo è, il giocatore in grado di da solo con una giocata e solo per la sua classe, lo diceva anche ieri a questi microfoni Tacchinardi, che nella sua Juventus di questi giocatori ne ha avuti tanti, che prende in mano la squadra e che da solo ti risolva la partita. Faccio un nome, ma a caso, Ibrahimovic. Un nome a caso. Andrea, no, prima di Andrea D'Asti e Luigi da Brescia, sentiamo un po' di Allegri. Che ci pensavo, l'abbiamo anche provata prima di questa partita, in questi due giorni, ma anche prima di un'altra partita, poi ha lasciato stare. Credevo che con i tre difensori riuscivamo a gestire, avere una buona gestione della palla, visto che loro facevano un buon pressing offensivo. Io non posso avere qualcuno che non decide, che si nasconde e che... Cioè, io devo pensare a qualcuno che lavori con me, che io mi fido e che ha una certa visione manageriale, perché se no... Il lavoro finisce qui. Ma va là, Briatore, ho parlato di Ibrahimovic ieri ha vinto con il suo Paris Saint-Germain una partita abbastanza, anzi molto semplice, sul campo della Dinamo Zagabria, un 2-0 che agli uomini di Ancelotti sta anche stretto. Poi è stato avvicinato da Alessandro Acciato e gli è stato chiesto un parere, no, non da chi? Da Monica Vanali, è stato avvicinato da Monica Vanali. Ecco perché qualcuno è riuscito ad avvicinarsi ad Ibrahimovic. È stato chiesto un parere sul Milan sconfitto a Malaga. Sentite cosa ha risposto. Sentite, una cosa velocissima. Ha perso il Milan, cosa hai pensato? No, non l'ho visto. Sentito adesso. Ti dico io che ha perso. Okay. Sempre peggio. Problema di loro. Questo è Ibra. Andrea D'Asti. Ibrahimovic. Andrea? Lo dico da milanista, sì, non ho capito. Ci sono. Fantastico Ibrahimovic, lo certo. Dico da milanista. Prima lei giustamente parlava di Allegri. Io penso che Allegri non venga più esonerato, ma per due o tre motivi. Perim, Zaccheroni e Tabarez vennero esonerati per molto meno. L'allenatore del Milan, che perde più della metà delle partite, dopo che l'amministratore delegato aveva detto che lottava per lo scudetto ed è ancora lì a fare una conferenza stampa, sarà lì per motivi che noi non conosciamo, anche perché obiettivamente l'anno scorso gli fu rinnovato il contratto a gennaio e adesso io non riesco a capire come possa essere mandato via. Detto che secondo me Allegri dovrebbe andare via e dovrebbe arrivare un Delio Rossi o un Sannino della situazione a traghettarci verso un onestissimo decimo posto. Quindi come un traghettatore. Ieri sera sentivo invece parlare anche di Rijkaard. Ma per carità, Rijkaard è stato mandato via dalla Nazionale, dal Barcellona, dal Besiktas, adesso in Arabia Saudita, ha fallito le qualificazioni mondiali, cioè scarso per scarso mi tengo questo. Meglio uno che, come diceva lei giustamente poc'anzi, mangia l'erba da regole di ferro. Bravo, sì, no, questo serve al Milan. Regole semplici, il Milan ha bisogno di regole semplici, ha bisogno di conoscere una strada sulla quale camminare e camminare lungo quella strada, perché diceva bene prima Umberto Zappelloni, non puoi inventarti in Champions League la difesa a 3 in funzione dell'andamento della partita. Questo lo puoi fare se hai la squadra in mano, se hai una squadra forte, se hai una squadra in un buon momento. Allora puoi cambiare in corso d'opera le regole del gioco. Così il Milan ha bisogno di estrema semplicità. Tutti convocati, altro che 800 24 00 24, numero verde. Intanto Novellino ha vinto il Gratte Vinci, andrà ad allenare il Cluj, squadra che partecipa, lo ricordo, alla Champions League. Intanto Allegri non è l'unico allenatore in difficoltà, se è vero che in Inghilterra stanno facendo, figuratevi, tabloid, pelo e contropelo a Roberto Mancini, praticamente eliminato dopo la brutta, orrenda sconfitta del suo Manchester City ieri sul campo dei ragazzini dell'Ajax. È già pronta una bara per il Manchester City nel girone della morte, scrive il Sun. Oppure all'Amsterdam Arena, Daily Mail, è andata in scena una commedia degli errori, un horror show che vale un'umiliazione. Il più sobrio Times scrive: i limiti del manager sono di nuovo emersi, e gli fanno il mazzo su tutto, da come si veste al ciuffo allo shopping sfrenato. Figuratevi un po' che giorni si passa Roberto Mancini in Inghilterra. Luigi da Brescia, buongiorno. Carlo, buongiorno, ciao. Ciao Luigi. Ciao. Magari sono un po' fuori argomento, ma visto che siamo tutti convocati... Allora, basta, basta con questo fuori argomento. Il fuori argomento non esiste. Siamo qui un'ora a parlare di sport. E per questo che vi convoco tutti, non solo quelli che vogliono parlare di Milan, di calcio, di Juventus. Bene. Tutti convocati. 800240024. Quindi grazie per avermi richiamato. Io, Carlo, volevo tornare sul discorso del doping e del caso di Lance Armstrong al Tour de France. A parte che per una volta non siamo gli unici farisei e gli unici da atmosfera a posto 8 settembre come al solito, perché tutto il mondo sportivo, soprattutto la Francia, sta sputando addosso al corridore che, con tutte le sue colpe, sappiamo benissimo che sicuramente ne ha tante, ha reso popolare il Tour negli Stati Uniti e l'ha reso un evento planetario. Certo. Prima nessuno sapeva che cos'era il Tour de France. Luigi, adesso non esageriamo. Prima tutti sapevano che cos'era il Tour de France. Non sapevano cos'era il Tour de France negli Stati Uniti, non lo sapevano in Australia, non lo sapevano in molti angoli del mondo, e dunque il Tour de France, grazie alla magia poi truccata, si è scoperto, di Lance Armstrong, ha reso questa corsa popolarissima, ed è per questo che io dico che è stato coperto, perché era utile a molti, che adesso non pagheranno. Però io volevo farti due domande. La prima è: perché tutti quelli che hanno coperto in particolare i vertici della UCI, nessuno si dimette, compreso il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme, che sapeva benissimo, perché tu sai che fino a pochi anni fa il Tour faceva dormire tutti i corridori nelle stesse camerate, sapevano benissimo eppure hanno coperto. E la terza e ultima cosa, Carlo, così poi lascio spazio anche agli altri, è: non vorrei, perché sembra adesso e nei discorsi diciamo per strada c'è questa percezione, che la gente pensasse che grazie a quattro punture diventi Lance Armstrong o Marco Pantani. Cioè, il doping si innesta su macchine atleticamente perfette che gli permettono solo una cosa. Sì, non vinci il Tour de France per il doping, non scali le montagne come Pantani solo per il doping. Lo fai con l'aiuto del doping, ma perché sei forte, fortissimo, su questo non c'è dubbio. Io non credo che ci sia nessuno in grado di vincere una grande corsa a tappe solo perché si droga di Epo, quindi questo è una mistificazione. Direttore del Tour de France Christian Prudhomme, ricordiamo, direttore del Tour de France dal 2005, ha fatto ed è uno strenuo sostenitore della battaglia antidoping. Il direttore del Tour de France prima di Christian Prudhomme era Jean-Marie Leblanc, negli anni in cui Armstrong, guarda caso, fino al 2005 si pigliava tutte le maglie gialle che voleva. Nelle ultime due stagioni Prudhomme è stato il vice di Leblanc. Questi sono i fatti. Quindi voglio farvi sentire una cosa divertente andata in onda e in scena ieri a San Pietroburgo, dove poi lo Zenit con grande fatica ha battuto l'Anderlecht 1-0, ma prima della gara si è sentita questa cosa qui. Era finito il disco, non c'era tutta la canzoncina intera della Champions League, e allora vai con la disco music, con i giocatori che ridevano come matti. 800 24 00 24, qui tutti convocati per parlare di sport. Forse abbiamo un altro Allegri da farvi sentire nell'attesa. Poi basta con Briatore, che ha scocciato un po' anche me. Io sono imbattuto su X Factor, lo giuro sulla testa di Filippo Aureggi. Sono imbattuto. Però insomma c'è questo sketch di nuovo preparato da Franco Piantanida. No assolutamente, anche perché non fa parte del mio carattere, ho molto la fiducia nei ragazzi. Credo che in campionato ne verremo fuori, in Champions siamo ancora al secondo posto e come avevo detto all'inizio questo sarà un girone molto equilibrato, quindi ci giocheremo il ritorno col Malaga e le altre due partite che rimangono, ci giocheremo il passaggio del turno. In campionato la squadra io sono convinto che si riprenda. Io cerco una persona su cui posso contare che non crei confusione e deve sempre avere il controllo della situazione. E le colpe maggiori in questo caso qui sono tue. Per me sei fuori. Addirittura, colpe maggiori in questo momento sono tue, per me sei fuori. Gagliani dice che è ancora dentro, almeno fino alla partita con il Genoa. Ultima prova d'appello, però credo che il futuro di Allegri, sarei molto sorpreso se Allegri venisse convocato anche in caso di un risultato negativo nella partita con il Genoa. Gianni da Mantova, buongiorno. Ciao Carlo. Allora, io avevo due aspetti da dire. Allora, il primo è che secondo me non ci crede più nessuno nel Milan, perché altrimenti se sono convinti di avere dei campioncini in squadra qualcosa avrebbero già dovuto fare. Cioè non ci crede più nessuno, in che senso? Non ci credono più i tifosi, non ci crede più la società? No, la dirigenza. Non ci credono neanche loro, perché altrimenti avrebbero preso provvedimenti. La prima cosa da fare appunto è cambiare l'allenatore. Sono convinti che gli uomini che hanno sono validi, perché dovremmo avere presso poco gli stessi punti dell'Inter, cioè non è una squadra inferiore all'Inter sulla carta. Poi, certamente non è una squadra inferiore alla maggior parte di tutte quelle che le stanno davanti e che hanno più di 7 punti, quindi questa è una balla. Cioè il Milan non vale 7 punti in classifica, in campionato, nemmeno questo Milan. Poi? Per come sta giocando, non li merita per gli elementi che ha insomma in campo. Poi come seconda cosa voglio dire, ma non è caso che Berlusconi, non avendo più bisogno di voti, perché è un grosso bacino quello dei tifosi, non avendo più bisogno di voti abbia lasciato andare il tutto? Bah, non so, può essere un'idea, perché il Milan sappiamo bene quale sia stata, e non stiamo inventando niente, quale sia stata la valenza del Milan dal punto di vista simbolico, comunque nell'epopea politica anche di Silvio Berlusconi. Io saluto e ringrazio il mio amico Marco Nosotti da Sky. Ciao Marco. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Mi sono divertito come un pazzo ieri sera nel sentire una tua diretta telefonica dal pullman del Milan, ed ero sinceramente preoccupato per te. No, eravamo proprio nei pressi, niente di grave, ecco. Era che c'era un clima difficile perché di rado ho visto una squadra alla ricerca di un appiglio per cercare di ritrovarsi. Ma scusami, questo appiglio non lo trovi più, cioè secondo me, io prima parlavo con Umberto Zappelloni e gli ho detto: caro direttore, non sono d'accordo con te, in questo momento l'unica strada, anche se è una strada di principio sbagliata, è cambiare allenatore, ma perché il Milan ha cambiato allenatore quest'estate? È vero. Il discorso è, io credo nelle qualità di Allegri, credo che la soluzione interna però cambi poco. Nel contempo però il fatto che sia un allenatore che comunque ha scadenze, gli cambiano col bianchetto la scadenza sulle spalle ogni settimana, invece che costringere i giocatori a dare il massimo e andare in una sola direzione, comincia a creare qualche alibi. C'è qualcuno che non si sente fare questo progetto, o all'altezza di questo progetto, o troppo bravo per questo progetto che sta andando in difficoltà, ho paura che stiano prevalendo anche le esigenze dei singoli, anche inconsciamente. C'è qualcuno che pensa forse che a gennaio se ne andrà, e perché non si ritrova in questa situazione così difficile in cui obiettivamente, anche quando hai piccole certezze, ti sembra di averle conquistate, come anche ieri questa difesa a tre che non era poi così del tutto improvvisata, cioè di colpo loro fanno gol, fai un errore e loro fanno gol, e tu non riesci a farlo perché al Ceraui tira troppo bene e si esalta il portiere. Sì, forse in ultima analisi hai ragione tu, non è da provare sempre a cambiare allenatore, ma potrebbe, e credo che fino a meno Milan-Genoa questa è un'idea, si va avanti così, poi dopo poi dopo si vedrà. Ma mi sembra che queste cose te le abbia dette ieri al microfono Montolivo, che non avrà la statura forse tecnica del leader, ma magari quella emotiva sì, o comunque sta studiando da leader di spogliatoio. Lui è bravo, no, lui ha parlato bene, è ovvio. Qualcuno potrebbe dire: ma chi sei, sei l'ultimo arrivato in questo gruppo? Ma questo gruppo è stato profondamente cambiato, da forse un mercato che non aveva progettualità precisa, non aveva preventivato l'uscita di scena dei grandi, a dovere. E quindi secondo me ieri a Montenegro ha parlato bene, ci vuole disponibilità, ci vuole positività, ma senza poche storie. Guarda, chi va anche in tribuna deve capire che fa parte di un progetto, di un gruppo che prova a venirne fuori insieme. Tu hai parlato ieri sera anche di Rijkaard, è possibile? Si è parlato di Rijkaard, adesso un po' di gente dice che non è stato contattato. Io credo che sì, sta storia del Milan e i milanisti siano quelle formule che vengono applicate, quelle ricette che vengono applicate sulla soluzione senza neanche poi verificare bene se le cose combaciano, sia una cosa utile. Anche Van Basten, l'immaginario dei tifosi del Milan è un grande, è un grandissimo. Come allenatore ha lasciato un po' a desiderare. E poi un allenatore nuovo che arriva così, anche con quel passato dietro, quanto è veramente facilitato. Qui ogni 3 giorni si gioca, viaggi, cosa metti in campo? Certo. Oppure cambi tutto lo staff, perché questo staff sta lavorando con Allegri da sempre, lo stesso Sassuolo che condivide anche molte delle scelte, credo. È una soluzione difficile, veramente. Forse dopo Milan-Genova, vedi come va Milan-Genova, perché al di là di questa considerazione se il presidente, che non può vedere Allegri da un bel po', decide di passare subito e prenderlo subito in mano questa cosa. Certo. Grazie Marco, grazie davvero, un abbraccio. Buona giornata a tutti. È dirlata una cosa velocissima, ha perso il Milan, cosa hai pensato? No, non l'ho visto, sentito adesso. Ti dico io che ha perso, okay. Sempre peggio. Problema di loro. Ragazzi, ci tengono 5.079 followers su Twitter, quindi fate il piacere, ne vogliamo 5.100 prima della fine del programma, vediamo se ce la facciamo, sembra di fare le televendite. 800 24 00 24, numero verde, tutti convocati qui. Non so se sia colpa solo del lodo Mondadori, il declino del Milan, come scrive Lele da Cuneo. Enrico, Modena. Enrico? Enrico da Modena, dov'è? Dov'è finito? Dove si è infilato? Francesco, dalla provincia di Pescara, vediamo se lui c'è. Pronto? Eccola, buongiorno. Ciao, sì, ciao. Buongiorno. Allora, io volevo fare 2 precisazioni. Uno, che sono quasi un mese che dicono Allegri all'ultima spiaggia, Allegri all'ultima spiaggia, cioè o lo cacciate e basta, perché ormai non ne possiamo più. E poi un'altra cosa, cioè giocare in Champions con Ambrosini, che ha perso 3 palloni e rischiavamo di stare sotto, dopo 20 minuti c'era di 3-0. Beh, insomma, cioè, io Ambrosini, io sono milanista e Ambrosini, dico la verità, non ho rifatto neanche Mediaset l'abbonamento per vedermi le partite del Milan, perché dopo quello che è successo quest'estate, cioè proprio ero scandaloso. Sì, beh, Ambrosini qualcosina ha dato al Milan, non sta benissimo, però era uno della vecchia guardia cui evidentemente Allegri in un momento di così grande difficoltà si è voluto aggrappare. Però se stiamo a guardare ieri sera, la sufficienza l'hanno meritata davvero in pochi. Il migliore è stato ancora, lo ripeto, secondo me, un ragazzino che non ha storia in questa squadra, che ha voglia di giocare, che ha voglia di esplodere, che sta dimostrando, e non è semplice in una squadra così allo sbando, allo sbaraglio, di solito si affonda insieme alla squadra, questo denota grande personalità di El Shaarawy. Ebbene, il migliore è stato ancora lui, quindi questo è quanto. Poi c'è chi scrive, ma non potrebbe rendere di più da trequartista, ma non scherziamo, El Shaarawy è un magnifico attaccante moderno che avrebbe bisogno di un compagno di reparto all'altezza, che non può, per ragioni strutturali in questo Milan, essere Pazzini, altro giocatore che a me piace molto. Però Pazzini è un centravanti classico particolare che deve essere servito in una certa maniera, che ha bisogno di rifornimenti, di cross dal fondo. L'ho visto troppe volte prendere la palla a 40 metri dalla porta, spalle alla porta, magari nei pressi della linea laterale. Lì Pazzini non serve a nulla. Quindi Quindi questo Milan si aggrappa, può aggrapparsi soltanto in questo momento alla voglia di spaccare il mondo di un ragazzo che sabato compie 20 anni. Mi sembra l'unica nota positiva dell'intera stagione rossonera. Gianni Vercelli. Dottor Carlo, buongiorno. Senta, io vorrei intervenire sul fatto del Milan. Sì. Che, dato che ho sentito tanti, anche dal direttore della Gazzetta, dal vice direttore, che praticamente vuol cambiare gli allenatori, quelle cose lì, ma bisogna fare anche nome e cognomi, però, nel senso che dare in mano a un allenatore che non sia da grande squadra, una squadra adesso come il Milan, cioè io voglio dire, voi li avete i nomi? Io non credo. No, ma attenzione, dove si vuole arrivare? Perché allora il Milan, lei lo sa perfettamente, in passato ha già avuto delle inversioni di rotta per quanto riguarda gli allenatori, no? Si ricorda di Tabarez, si ricorda di Zaccheroni, si ricorda di quando vennero richiamati con pessimi risultati, peraltro Sacchi e Capello, quindi c'è stato Cesare Maldini di ritorno sulla panchina del Milan. Qui si tratta di capire se si vuole, come mi pare corretto, un traghettatore fino alla fine della stagione. Allora possiamo anche fare dei nomi. Secondo me la soluzione migliore potrebbe essere quella di Tassotti, vice di lunghissima data, cui potrebbe essere data comunque la responsabilità della squadra. Il Milan ha bisogno di trovare una via. Allegri è stato esautorato dalla società già quest'estate, questo i giocatori lo sanno benissimo, e questa è l'unica condizione per la quale secondo me cambiare allenatore diventa a un certo punto, e io credo che questo sia il punto fatale, al di là della bravura di Massimiliano Allegri, che secondo me è un bravo allenatore. Enzo dalla provincia di Vicenza. Buongiorno. Io sono d'accordo con lei in parte. Dal mio punto mi di dica vista, la parte su cui non è d'accordo. Non è più nemmeno che bisogna avere pazienza. Cioè Allegri a mio avviso è un ottimo allenatore che può anche fare da traghettatore tranquillamente una nuova realtà. Però realtà come il Barcellona non sono nate dall'oggi al domani. E a livello giovanile bisogna lavorare bene. E anche avendo dei giovani in squadra in questo momento qua, gente vecchia come Ambrosini può anche andare in crisi, ma come ieri sera, né più né meno, perché non si sente spalleggiato abbastanza. Il Milan ha ricominciato a lavorare bene a livello giovanile da un paio di stagioni, ad investire anche quattrini, a riorganizzare per intero il settore giovanile da un paio di stagioni. Non si possono attendere frutti così presto. Esatto, bisogna avere un po' di pazienza. Dal mio punto di vista, nel momento in cui riesca... Ho capito, Enzo, ma di questa stagione cosa ne facciamo? Il Milan deve lottare per non retrocedere? Il Milan deve andare avanti così con una squadra che di fatto non ci crede più? Ma io, come vecchio milanista, mi attendo solamente di arrivare a salvarci e riproporre né più né meno una squadra per l'anno prossimo o tra due anni che possa essere ancora in grado di poter dire la sua, ma con della gente propria. È ora di finirla, di spendere una montagna di soldi per dopo non avere niente in mano. L'Inter l'ha insegnato questa cosa qua, ci ha voluto anni perché andasse a vincere qualcosa. L'Inter ci sta provando adesso nel ricostruire la squadra. Allora ragazzi, seduta terminata, ma domani tutti convocati dalle 2 alle 3, Franco Piantanide in redazione, Filippo Aureggi in regia, ciao a tutti. Se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo.